La strada arcobaleno. C'era un bambino di nome Incuriosisco che aveva gli occhi a mandorla. E questi occhi non erano soltanto ammandorlianti, ma potevano anche sprizzare tutti i colori dell'arcobaleno. E i biscioni, che erano invece fanatici del grigio, del pallido e dello smorto, decisero di porre fine a questa ondata di colori e imposero a Incuriosisco di non smettere mai di portare un paio di occhiali che avevano fatto pensando a lui e a quelli come lui. Questi occhiali, infatti, al posto delle lenti, avevano due prismi che capovolgevano le immagini della realtà, facendo vedere tutto rovesciato, in modo che si doveva cercare con le mani verso l'alto gli oggetti che stavano in basso e viceversa. Incuriosisco, appena si accorgeva che non era controllato, subito si toglieva quegli stupidi occhiali e i suoi occhi, zac, rincominciavano a spruzzare a onde, a pioggia, a corrente. E ben presto tutte le carte carbone, gli inchiostri di china, le ciminiere, i camini ricominciarono a scintillare come madreperle, come porfidi, come rubini. Ma visto che le parti colorate del mondo continuavano ad aumentare, perché oltre a Incuriosisco molti altri si davano da fare, i biscioni gli cavarono gli occhi di soppiatto e li diedero in pasto al gatto. Il bambino rimase così di colpo senza occhi. Al loro posto stavano ora soltanto due grossi e larghi buchi, bianchi e profondi. Incuriosisco però non si preoccupò, anzi gli scappava da ridere. In un mondo senza colori non si poteva vivere, così come senza i suoi occhi e senza quelli di tutte le bambine e i bambini come lui che creavano i colori. Il mondo intero, infatti, incominciò a scolorarsi e scolorirsi e imbrunarsi e imbrunirsi e bruttarsi e bruttirsi, e lentamente tutte le fabbriche di occhiali cominciarono a sfornare e tornire grandi quantità di lenti di colori offuscati, che avevano anche eccellenti montature, ma né occhi né occhiali ormai servivano a qualcuno, perché era tutto buio pesto, più pesto che era impossibile vedere anche il proprio naso, figuriamoci ad un palmo dal naso. Tutti presero a commentare gli ultimi avvenimenti con frenetico sgomento. Fra l'altro, con il buio cominciarono ad aumentare in maniera impressionante le collisioni e gli incidenti, i turbamenti, gli scontenti. Incuriosisco provò a cercare di ritrovare il gatto che aveva mangiato i suoi occhi, ma tutti i gatti erano spariti e non si sapeva dove erano andati a finire. Un giorno o una notte, chissà, il bimbo, mentre stava viaggiando a tastoni, a tentoni e a gattoni, si incontrò, o meglio si scontrò, con un affare. Un boh, un qualcosa, un qualcuno. Ai ai ai, fece Incuriosisco che si era sbucciato un dito. Ai ai ai, fece boh, che si era buscato un raffreddore. Bisogna sapere che a boh non succedevano mai le cose che succedevano agli altri. Per lui era tutto diverso, e se qualcuno voleva sapere il perché di queste stranezze, lui rispondeva appunto boh, e così lo avevano chiamato. Io ci vedo, canticchiò boh. Come fai? Io non ci credo, fece il bambino. Nello specchio ad occhio il futuro avverato, e poi le cose che ho guardato, le riporto nel passato, rispose Bob pimpante. Allora dimmi dove sono i gatti, e perché sono scappati come matti, e se tu puoi tutto riportare indietro, ma io qui non ci credo, al gatto che ha le mie pupille, conducimi senza quisquiglie. Io sono Bo, e mi stanco un bel po'. Nel futuro i gatti troverai, se nello specchio della mia immagine entrerai. Ma solo quando la parola cifrata avrai pronunciata. Quale sarà questa parola? Pensò il bambino. Ma, mi, be, ba, ah, ecco ci sono. Bo, questa è la parola cifrata. Bo, infatti Bo non si chiamava Bo, ma B-O-H, in sigla Bo. E così entrò nello specchio dell'immaginazione e si trovò nel futuro. E vide i gatti che giocavano e dipingevano e cantavano e ballavano e spostavano e rovesciavano tutto il baraccone in continuazione. Vide anche, si fa per dire, in mezzo ai gatti, un micio. Un micio che già conosceva e gli disse: Cipolla, sai mica chi è che ha i miei occhi? Ah, sì, miagolò Cipolla. Ma li vuoi proprio? Non ne hai altri? E come se li voglio? Ho solo quelli, ma che domande? Tieni, prendili, se proprio ci tieni tanto. Nel futuro, infatti, c'erano pupille a volontà. Ognuno ne aveva quante ne voleva. Anzi, l'occupazione prevalente era quella di pensare e di costruire nuovi occhi sempre più fantastici. Incuriosisco, ritornò indietro e la strada che fece prese i colori dell'arcobaleno. E quando fu di nuovo nel presente, cominciò a distribuire a chi ne voleva le pupille che i gatti gli avevano regalato. E come le bambine e i bambini avevano quegli occhi e vedevano la strada di arcobaleno, non volevano più sentire ragioni e intrapresero il cammino. Tutti gli altri, invece, che non hanno preso quella via, continuano a scontrarsi sempre più freneticamente.